Prima edizione. Eravamo in giardino, la moglie era in casa, era nel piano terra che è corso fuori terrorizzata. Siamo in giardino, c'è la roulotte, siamo lì tutti. Si dorme in tenda, perché andare in casa c'è poi da aver paura. E allora dormiamo in tenda. La gran parte delle case piccole a due piani non hanno avuto problemi, ed è la parte grande. Ma ho avuto tanta paura perché mi è venuto giù un pezzo sulla testa e poi vede. La gente è tutta fuori nelle strade. Copertina dedicata agli emiliani questa mattina che ieri sera sono tornati a riversarsi nelle strade. Apriamo così questa edizione di prima edizione di questo lunedì alle 21:22 di ieri, la lunga forte scossa magnitudo 5.1 e tanta, davvero ancora tanta paura. È stata un'altra notte così. Oggi tra l'altro è giornata di lutto nazionale per l'Emilia, allora più avanti torneremo ancora con prima edizione dove sono i 15.000 sfollati. Intanto però, come avete sentito, anche chi è rimasto a casa vive davvero ancora momenti difficili. La viabilità è tra poco, le prime pagine dei giornali. Prima edizione. Prime pagine dei quotidiani che questa mattina, per lo più, per la verità però, non aprono sul terremoto in Emilia, bensì sulle questioni economiche, su un'Europa alla ricerca di una soluzione per l'euro in questa settimana e soprattutto in questo mese di giugno, con il vertice europeo fissato per il 28 di giugno, che a questo punto una soluzione per forza dovrà darla per l'euro e per il futuro della crisi europea, altrimenti si andrà davvero al disastro. E allora ecco la Repubblica, crisi arriva al fondo salva banche, braccio di ferro sugli aiuti alla Spagna, Madrid che dice non li vogliamo, ma c'è l'ipotesi di far slittare il voto sul fiscal compact, almeno per quanto riguarda in Italia. La BCE sarebbe pronta a tagliare i tassi, è proprio dalla Banca Centrale Europea che potrebbe arrivare la svolta. E intanto, l'avete sentito anche nell'edizione di GR24, il ministro Passera dice sono 28 milioni di italiani colpiti dalla crisi. Le responsabilità di Berlino, così il commento oggi sulla prima pagina della Repubblica. Corriere della Sera, mini bond e fondo per le imprese, eccolo allora invece la parte italiana di questo piano per salvarti l'Europa e l'Italia dalla crisi. Il via libera dovrebbe arrivare in settimana. In arrivo in Consiglio dei Ministri c'è, scrive il Corriere della Sera, il decreto crescita e quello infrastrutture, tra le innovazioni cosiddetti appunto mini bond, obbligazioni e cambiali che le imprese non quotate, medie e piccole, possono emettere per finanziarli. E poi arriva anche l'ultimatum alle regioni su centrali e rigassificatori, e anche qui anche il Corriere della Sera parla di un super piano Unione Europea BCE per salvare l'euro. Sviluppo, pronti gli incentivi, mercoledì primo decreto del governo, titola il Messaggero. C'è anche in questo decreto, sottolinea il quotidiano romano, il rilancio dei cantieri, la riforma dei fallimenti e detrazioni per l'edilizia. Mercoledì dovrebbe essere la giornata decisiva. L'allarme di Passera, un italiano su due lotta contro la crisi, così la Stampa. Tasse sull'auto nel 2011 stangata da 9 miliardi, intanto da Unione Europea e BCE, anche qui si parla di un super piano per salvare l'euro. Stangata su cui punta l'attenzione il Sole 24 Ore, Sole 24 Ore edizione del lunedì con numerosi approfondimenti. L'apertura è dedicata a IMU e IRPEF, spinte al massimo, scrive il Sole 24 Ore, che ha fatto un monitoraggio sulle città capoluogo di regione dove, dice il Sole 24 Ore, cresce la pressione tributaria. Più colpite seconde case e immobili commerciali, l'aliquota media allo 0,91%, a Milano è all'1,1%. 0,06% l'aliquota su seconde case e immobili diverse dalle abitazioni, a Palermo allo 0,8%, a Firenze allo 0,2%, l'addizionale IRPEF scende dallo 0,3% allo 0,2%, ma l'IMU ordinaria è all'1,06%, così scrive il Sole 24 Ore, che pubblica in esclusiva anche altri importanti dati che ci parlano di una gelata dei consumi almeno al sud. I primi 4 mesi nella grande distribuzione danno un record di promozioni, con vendite stabili se guardiamo a tutta l'Italia, ma nel mezzogiorno la flessione è del 4,2%, così scrive oggi il Sole 24 Ore. Il commento su tutto questo tema, soprattutto sui consumi che cambiano, è di Mario Calabresi sul quotidiano La Stampa. Un paese che cambia abitudini, scrive Calabresi. Abituati ad aumentare anno dopo anno i nostri consumi, a ricorrere telefonini, televisori al plasma, viaggi, a riempire le case di oggetti assolutamente indispensabili, nei primi 5 mesi di questo 2012 abbiamo riscritto il nostro modo di vivere e di acquistare, non solo in modo più frugale, ma anche in una chiave più intelligente e sorprendente. Siamo diventati scienziati della spesa. Diminuisce il valore dello scontrino, ma nel carrello ci sono sempre lo stesso numero di pezzi, così scrive Mario Calabresi. I temi economici, dunque, in primo piano c'è naturalmente anche il terremoto, la paura senza fine, il titolo restando sulla Stampa, nuova forte scossa in Emilia per il Messaggero, nuova forte scossa, paura in tutto il nord, in Emilia la gente fugge in strada di notte. Un incubo che non finisce, scrive la Repubblica. Non molla, l'ha presa un attimo, altre scosse mentre scendeva la sera su una giornata imprudentemente definita tranquilla. Il Corriere della Sera, che è sicuramente almeno tra questi di cui stiamo facendo una carrellata, al quotidiano che la questione la mette più in evidenza, un'altra forte scossa, paura in tutto il nord, la stanchezza e lo sconforto, quando finirà, ci si chiede nelle strade, così dice, scrive il Corriere della Sera. E allora, alternando un po' le prime pagine dei quotidiani anche alle nostre interviste, io vi faccio anche sentire il commissario europeo Tajani, il vicepresidente della Commissione europea, che ieri è stato nelle zone colpite dal sisma, ma è che proprio a proposito in Europa ha annunciato anche aiuti dall'Europa per quanto riguarda le zone dell'Emilia colpite dal terremoto. E allora sentiamolo al microfono di Roberta Pellegatta. Noi siamo andati, il commissario Hahn ed io, a dimostrare la solidarietà concreta dell'Europa, a lavorare con le autorità delle zone colpite per fare in modo di erogare in tempi rapidi i fondi comunitari destinati alle calamità. E se il danno sarà quello che si pensa, cioè attorno ai 5 miliardi di euro, la Commissione europea entro la fine dell'anno, con il voto del Parlamento, potrebbe erogare attorno ai 200 milioni di euro a fondo perduto. Questo è certamente Quindi con il fondo di solidarietà? Con il fondo di solidarietà. Più possiamo riallocare fondi destinati all'agricoltura che invece provengono da altre destinazioni, verrebbero trasferiti al settore agricolo. Su questo c'è già il consenso del commissario Ciolos. In più stiamo lavorando. Ecco, in questo caso quanto ammonterebbe la cifra? Si potrebbe arrivare complessivamente, con tutto il reinvestimento nel settore agricolo, a un centinaio di milioni di destinati. Ecco, questo potrebbe essere una cifra plausibile. Però deve servire anche l'accordo della regione e di altre regioni. Possiamo anche intervenire sul settore delle costruzioni e soprattutto interverrò domani inviando una lettera a tutti i ministri di turismo dell'Unione Europea e ai ministri di turismo dei paesi da dove provengono il maggior numero di turisti extraeuropei, perché non si consideri l'Emilia Romagna una regione a rischio, perché si sappia che il terremoto non ha colpito le zone a maggiore presenza turistica, soprattutto quelle della costa. E così dunque Tajani al microfono di Roberta Pellegatta, che promette aiuti europei. Però io vi porto anche sul Sole 24 Ore di quest'oggi, che già però su questo un allarme o quantomeno un campanellino di attenzione lo lancia, perché ricorderete che per il terremoto dell'Aquila all'epoca ci fu il G8 con i grandi della terra che arrivarono tutti nelle zone del terremoto e promisero aiuti per i beni culturali dell'Aquila. Americani, cinesi, canadesi, spagnoli, tutti volevano restare un bene, scrive il Sole 24 Ore. Sapete che è successo? Tutti dileguati. L'Aquila aspetta ancora gli aiuti esteri per il dopo terremoto. La lista dei 45 monumenti da adottare, scrive il Sole 24 Ore, è rimasta quasi del tutto orfana di sponsor d'Oltralpe. Hanno mantenuto la promessa solo i russi, i francesi e i tedeschi. Per il resto non si è visto nulla. Così l'Aquila aspetta ancora gli aiuti esteri per il dopo terremoto su Il Sole 24 Ore. Voltiamo pagina, altre notizie oggi sulle prime pagine dei quotidiani, abbiamo ancora un paio di minuti per la nostra rassegna stampa, allora scorriamo velocemente anche altre notizie sul Corriere della Sera, taglio centrale, l'apertura del Papa ai separati, ieri a Milano nelle giornate milanesi per la famiglia, la Chiesa vi deve sostenere, così le parole di Benedetto XVI, allora a proposito di questo vediamo anche altri quotidiani. La notizia c'è un po' anche dappertutto. Altra notizia invece sempre dal Corriere della Sera. Facebook che va a votare, 900 milioni di iscritti, il referendum sulla privacy, meglio scegliere no, scrive il Corriere della Sera. Altra carrellata di notizie sulla Repubblica. Scuola e università, il PD boccia Profumo e scontro sulla riforma annunciata. Che succede? Che il governo vorrebbe premiare gli studenti e gli istituti migliori. Il provvedimento potrebbe essere discusso in Consiglio dei Ministri, il famoso Consiglio dei Ministri che ci sarà mercoledì, ma è arrivata la replica del PD che dice una riforma che incentiva solo la competizione e non migliora la scuola italiana. Critiche anche dall'Italia dei Valori. Si annuncia dunque una battaglia su un'altra riforma annunciata dal governo Monti. E poi ancora sulla Repubblica invece il taglio basso, una curiosità come spesso accade, la notizia non è nuova, è rilanciata ancora nuovamente oggi, la condanna delle donne in carriera, più brave ma guadagnano meno, le manager ricevono mediamente il 37% in meno dei colleghi maschi, una polemica e una notizia che per la verità va avanti da tempo. Sul Messaggero l'immagine oggi, oltre che il Papa, la Chiesa vicina ai separati, come dicevamo, c'è anche la festa sul Tamigi per la regina Elisabetta a Londra, i festeggiamenti per i 60 anni di regno con la sfilata sul Tamigi che si è conclusa solo ieri a tarda sera. Queste le principali notizie, la Gazzetta dello Sport, c'è una Sara Errani che esulta, la Errani incanta Parigi, ottavi del Roland Garros, è stata una grande giornata per i nostri. Allora il commento oggi sulla Gazzetta dello Sport è: l'Ital Tennis c'è, il sapore dolcissimo di una doppia impresa ci ha accompagnato per gran parte della giornata di ieri, ecco al Roland Garros c'è il tennis italiano. Prima edizione. È il momento dell'inchiesta di Radio 24 con Daniele Biacchessi. Italia in controluce. È il 4 di giugno e vi parla Daniele Biacchessi su Radio 24. La settimana inizia con un reportage sui primissimi giorni della nuova amministrazione di Parma a guida 5 Stelle. Il racconto di Cristina Carpinelli. Federico Pizzarotti è nato a Parma nel 1973, ha 39 anni, è sposato, non ha figli, ha un diploma di maturità tecnica con indirizzo elettronico, ha lavorato nella consulenza per istituti bancari e finanziari, ama l'informatica ed è uno sportivo, binomio che sfata un luogo comune. E in effetti Pizzarotti di luoghi comuni ne ha sfatati molti, il primo quello che un candidato senza esperienza politica possa arrivare a vincere le amministrative, il secondo che una volta sindaco debba dar conto ai vertici del partito che rappresenta. Pizzarotti si è infatti distinto subito per aver scelto autonomamente, senza far capo, a Beppe Grillo, anima del Movimento 5 Stelle. Federico, resta uno di noi, non ti allontanare dai problemi della tua gente. Federico, complimenti e ora non ti montare la testa. Scrivono questo le persone che lo hanno eletto. E lui, il sindaco, che fa? Adesso la mia difficoltà è il fatto di essere ancora da solo. Quali sono i criteri che lei userà e che sta usando per scegliere gli assessori? Beh, allora abbiamo fatto, prima di tutto ci sono arrivati centinaia di curriculum da tutta Italia, ovvio che noi, il gruppo soprattutto, perché io arrivo nelle fasi finali, valuta quelli che hanno le competenze necessarie per diversi assessorati, ma anche di, insomma, essere di Parma, perché evidentemente chi meglio di chi è di Parma, a parità, dico, di, insomma, di curriculum, può affrontare le tematiche, insomma, della propria città. Quando si arriva poi ad avere 4, 3, 4, 5 nomi, dipende dagli assessorati, quando ce n'è di più o di meno, li incontro anch'io, perché è ovvio che poi sono persone che dovranno lavorare a stretto contatto con me. Non è che possiamo dire di aver scelto quello con più competenze, però ci proviamo, che già questo invece normalmente quello che vediamo è un affidamento tante volte non per meriti ma per una scelta politica, e tante volte anzi con persone che non trattano l'argomento a cui dopo poi saranno delegate a trattare. Quindi tante volte abbiamo visto, voglio dire, l'architetto sociale. Una volta fatta la giunta, quali sono le priorità secondo lei da affrontare per la città di Parma? Beh, le priorità sono sicuramente quella del bilancio. Adesso noi abbiamo bisogno di revisionare quello che, non tanto il bilancio comunale, comunque verificarlo, ma soprattutto il bilancio delle partecipate. Quindi verificare e mettere in sicurezza, insomma, stabilire una strategia, tante cose sono già state fatte anche dal commissario, ma stabilire una strategia di uscita che possa dilazionare il nostro debito, che quello c'è e va gestito nel tempo. Poi c'è da gestire, dopo aver messo in sicurezza, ovviamente un livello dei servizi sociali che, voglio dire, da Parma sono sempre stati molto elevati, bisogna mantenerli tali, andando a vedere se le spese per i diversi servizi sono adeguate. E poi ovviamente per noi c'è il tema dell'ambiente, quindi quello dell'inceneritore, perché va trovata una strategia di uscita per non finirlo, per riconvertirlo e quindi per non accenderlo. Gran Italia incontro luce tutti i giorni, due edizioni, vi ricordo 6.30 e 13.30 in studio Daniele Biacchisi, vi saluta, vi ricordo podcast su radio24.it, Facebook, pagina gruppo, Twitter e controluce@radio24.it la mail. Messaggio arriva da questo Family 2012. Ma che le famiglie ci sono e che la famiglia è sempre il centro della società, e su questo dobbiamo puntare, altrimenti non ne veniamo fuori. Sono piaciuti i messaggi del Papa in questi 3 giorni? Moltissimo. Ma l'apertura alle coppie divorziate è stata molto bella. I cattolici ci sono, a differenza di tutte le critiche che ci sono in giro, i cattolici ci sono e si devono far sentire. Arriva un messaggio di speranza, visto che, di sostegno sicuramente a Santo Padre, poi di speranza perché tutta questa gente da tutte le parti del mondo, in un momento di crisi economica e di difficoltà anche della Chiesa, dà un messaggio di fiducia per il futuro. Così ieri a Milano, a chiusura della visita del Papa, i commenti raccolti ieri sera dalla nostra Katia Caramelli. Allora ripartiamo da qui con la seconda parte di Prima Edizione questa mattina, dalla visita del Papa, ma soprattutto da un Benedetto XVI che da oggi, tornato in Vaticano, dovrà tornare invece ad occuparsi degli scandali. Allora, sempre al microfono di Katia Caramelli, Gianfranco Sviderkowski, ex direttore dell'Osservatore Romano, autore di Mal di Chiesa, un libro che già qualche mese fa affrontava la questione dei mali del Vaticano, così parla della fuga di documenti, tra l'altro. Io invece ho qualche dubbio che tutto questo risolva, questi 3 giorni risolva in qualche modo, diciamo, lo scenario, per il semplice motivo che secondo me, anzi forse come era già accaduto per la storia della pedofilia, ma anche forse in misura maggiore, non ci sia stata da parte della Santa Sede del Vaticano una giusta attenzione a creare una qualche coscienza nella gente di quello che sta succedendo. Quale può essere la ricaduta di tutti questi scandali, queste voci di scandali sulla gente dalla fede più semplice? Che cosa c'è dietro il VatiLeaks? Io trovo che sia una situazione abbastanza preoccupante, perché il clericalismo, in quanto tale, che è dominio dei chierici, per secoli è andato avanti, era una sorta di strumento di difesa per la Chiesa e soprattutto per il Papa contro le minacce esterne, dall'illuminismo in poi, e quindi era stata una sorta di baluardo per il Papa. E invece quello perlomeno da quello che è emerso fino adesso, questa sorta di nuovo neoclericalismo è veramente una sorta di ricerca del potere personale. Siamo a questi livelli, a parte il fatto che è deprimente, ne stiamo parlando noi italiani di un qualcosa che, di cui sono protagonisti da una parte all'altra, fondamentalmente dei personaggi di chiesa italiani, e che creano scandalo nel mondo. Cioè, questi italiani che per raggiungere un certo potere non hanno nemmeno il pudore di nascondere le cose, come forse succedeva una volta. Eccolo, così dunque, grazie a Katia Caramelli, a chiudere la tre giorni milanese di Benedetto XVI, che da oggi, come dicevamo però, tornerà ad occuparsi delle questioni vaticane e dei corvi in Vaticano. Oggi intanto 4 giugno, l'abbiamo detto, è giornata di lutto nazionale per il terremoto in Emilia. Tra le 12 e le 12.10 ci sarà un minuto di silenzio, tra le 12 e le 12 un minuto, scusate, nelle scuole, negli edifici pubblici, in tutti i posti di lavoro dove si riterrà di aderire a questa giornata di lutto nazionale per il terremoto. Terremoto che però non è questione conclusa, perché di tregua ancora ne dà davvero poca. C'è stata un'altra forte scossa, 5.1, che ha colpito di nuovo il Modenese alle 21.22 per l'esattezza di ieri sera. Forte scossa che è stata sentita al confine tra Emilia e Lombardia, si è sentita in maniera molto forte anche a Milano, a Bologna, a Padova, a Vicenza, a Trento, a Trieste, a Bolzano, a Parma, a Forlì, insomma tutto il nord Italia di nuovo sentito questa forte scossa di terremoto 5.1. La domanda che molti si fanno è: che succede, perché la terra continua ancora a tremare con queste scosse così forti? Allora, la spiegazione è arrivata in serata dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, dal sismologo Alessandro Amato. La scossa intanto possiamo dire che è avvenuta nella zona della provincia di Modena, Novi di Modena e i comuni limitrofi, che era una zona già attiva da diversi giorni, in particolare dopo il 29 di maggio, quando ci fu il magnitudo più forte di quel settore, 5.8. Da allora quella zona è molto attiva, ha avuto tantissime scosse piccole, qualcuna un po' più forte, e ha avuto questo picco con un paio di terremoti sopra 3 in serata verso le 8 di sera, e poi questa più forte delle 9.20. Ci sono scosse anche forti e tantissime piccole, insomma è un po' una legge empirica che esiste, che ogni classe di magnitudo ci sono 10 scosse della magnitudo più piccola. Insomma, è chiaro che non possiamo dire oggi arriva o stasera arriva quella di 5, domani 4, questo è purtroppo impossibile prevederlo. Però impossibile prevederlo, dicono i sismologi, però molto probabilmente altre scosse ci saranno, tant'è che dopo quella appunto 5.1 nella notte ce ne sono state altre, a mezzanotte 27 un'altra scossa magnitudo 3.1, ed ecco perché in molti in Emilia hanno passato di nuovo la notte in strada. Prima edizione. L'Emilia Romagna non sarà lasciata sola, quei cittadini, quelle imprese, quei lavoratori, quei comuni, quei sindaci non sono soli, stiamo lavorando e daremo le risposte che un paese solidale e grande come l'Italia deve sapere dare. Eccolo ancora Vasco Errani, governatore dell'Emilia-Romagna, commissario straordinario per il terremoto. Ve lo continueremo a far sentire. La promessa è: l'Emilia non sarà lasciata sola. Promessa che riguarda anche noi di prima edizione. Oggi in particolar modo giornata di lutto nazionale. Non vogliamo lasciare solo soprattutto chi ha già perso la casa e in questi giorni sta dormendo in uno dei tanti campi allestiti in Emilia per dare un rifugio a chi appunto una casa non ce l'ha più. Come ci si sta risvegliando questa mattina in Emilia, nell'Emilia colpita al cuore dal terremoto? Andiamo al campo Sfollati di Cento. Sergio Bonsi, Associazione Alpini, buongiorno. Buongiorno. Com'è stata la scossa di ieri sera? Beh, è stata abbastanza breve, ma si è sentita, quindi il morale della popolazione risente di queste scosse sicuramente. Non l'abbiamo sentita particolarmente forte ieri sera, forse anche un po' per la superficialità dell'evento, però sì, la gente è uscita in strada un'altra volta. Superficialità ragazzi... dell'evento, spieghiamo, vuol dire che la scossa comunque non era profondissima, insomma, era molto forte, ma meno profonda, ecco, non sì, perché era non era... molto forte, vicino, quindi vicino all'epicentro si è sentita tantissimo, noi siamo un pochettino più distanti, quindi questa l'abbiamo accusata un po' meno. La gente mi diceva però è tornata in strada, perché dopo un paio di giorni che le scosse diminuivano e diminuivano, così forte forse non ce la si aspettava. Sì, assolutamente, soprattutto perché qua a 100 quella la quale abbiamo risentito maggiormente è stata la seconda, quindi la gente ormai era abituata, era già tornata a scuola, i bambini erano andati nelle scuole e la seconda che è arrivata non era attesa, quindi anche quella di ieri sera ha creato un attimo di paura, sono usciti anche dalle tende, quindi tutti in strada, però velocemente nel giro di un paio d'ore un po' di tranquillità. Senta, com'è il tempo questa mattina? Qui a Milano piove, una brutta giornata e questo non aiuta, lì com'è il tempo? Mi affaccio fuori dalla tenda, guardiamo un attimo, e siamo in diretta. Sì, sì, qualche goccia sta iniziando a venire, si vedono i nuvoloni che arrivano, non piove ancora, però piovigina. E questo non aiuta, immagino, nel gestire un campo con quante persone da voi? Al momento il campo ha 380 ospiti sul campo principale, con una dependance, chiamiamola così, nel palazzetto dello sport di altre 200. Chi sono le persone che da voi hanno lasciato le case e sono venuti, hanno fatto la scelta invece di non dormire in camper, in tenda, nel giardino, ma invece di stabilirsi da voi? Chi sono soprattutto? Beh, principalmente sono abitanti del centro storico, che è la parte più lesionata della città, anche perché gli edifici sono quelli un pelo più anziani, un pelo più vecchiotti, e quindi abitanti del centro storico, un 70% di popolazione di etnia non italiana, un 30% di etnia italiana. Ecco, in moltissimi campi dell'Emilia sta succedendo questa cosa, perché ce la stanno raccontando anche alcuni nostri ascoltatori, che sono moltissimi gli stranieri che sono nei campi degli sfollati. Perché questa caratteristica? Beh, sicuramente la rete di amicizie, la rete di solidarietà locale è molto attiva, solo nel nostro comune ci sono 240 associazioni di volontariato, quindi un comune con 37.000 abitanti. Questo permette agli abitanti che risiedono da più tempo sul territorio di avere comunque alternative, amici, casa al mare, alberghi. E quindi a rivolgersi alle tendopoli sono stati principalmente gli stranieri, è quello che un po' sta venendo fuori in questi giorni. Gli emiliani si stanno rivolgendo più agli amici, ai parenti, appunto alle seconde case? Sì, io le dico, al di là di essere il coordinatore sezionale dell'Associazione Nazionale Alpini proprio delle emergenze, sono sfollato anch'io perché anche la mia casa è inagibile e anche i miei genitori sono inagibili, però li ho mandati da mia sorella a Roma e vi andare, ecco, quindi questo un po' aiuta a scaricare la pressione sui centri di accoglienza. Però persone straniere che magari abitano in Italia con famiglie molto numerose, 7, 8, anche bambini, eccetera, si affidano ai campi di accoglienza. Stranieri che nel vostro territorio peraltro sono molti proprio per il lavoro. Sì, sì, sì, questo sicuramente. Questa mattina tra le altre cose iniziano a lavorare, si vede già qualcuno che fa la fila alla mensa, inizia a fare qualcuno colazione. È già pronto per la colazione, perché poi nelle aziende sane si lavora. Magari chi lavora nel bolognese, da 100 molta gente va a lavorare verso Bologna, fortunatamente non hanno risentito particolarmente, quindi provano a riniziare. E si prova anche così. La lascio alle file allora della colazione. Grazie per essere stato con noi, Sergio Bonsi, Associazione Alpini, campo degli sfollati di 100. Questa mattina si risveglia così. Grazie, buon lavoro. Buongiorno. E allora con questo racconto chiudiamo anche questa mattinata, questo lunedì di prima edizione. Domani andremo in un altro luogo colpito dal terremoto, continueremo a raccontarvelo. Nel frattempo ci risentiamo tra poco invece con GR24, Peter Bescapè, Diego Rovelli come sempre insieme a me. Ci risentiamo tra poco, buona giornata da Anna Migliorati.